Il terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Traduzione di Giovanni Raboni. Quella sera ricevette una lettera di sua madre. Si stupiva di non vederlo ancora ministro, né gli risparmiava qualche frecciatina. Poi parlava della sua salute e lo informava del fatto che il signor Rock adesso andava a farle visita. Da quando è vedovo ho creduto di poterlo ricevere senza inconvenienti. Luisa è molto cambiata e in meglio. C'era un post scriptum. Non mi dici niente di una tua simpatica conoscenza, il signor D'Ambreuse? Al tuo posto cercherei di trarne profitto. Perché no, davvero? Le ambizioni intellettuali lo stavano abbandonando e il suo patrimonio, cominciava ad accorgersene, non era sufficiente. Pagati i debiti e versata agli altri la somma convenuta, la sua rendita sarebbe diminuita di almeno 4.000 franchi. E poi sentiva il bisogno di uscire da quel tipo di vita, di attaccarsi a qualcosa di solido. Il giorno dopo, a pranzo da Madame Arnoux, disse che sua madre lo tormentava perché scegliesse un'attività. «Ma io credevo», replicò la signora, «che il signor D'Ambreuse stesse per farla entrare nel Consiglio di Stato. Le si adatterebbe molto bene». Così era questo che lei voleva. Federico obbedì. Come la prima volta, il banchiere era seduto al suo scrittoio e con un gesto lo pregò d'attendere qualche minuto, dato che un signore, che dava le spalle alla porta, lo stava intrattenendo su questioni assai delicate. Si trattava di carbon fossile e di una fusione tra diverse società. L'individuo, uscendo, passò davanti a Federico. Era il vecchio Audry. Tutti e due, nel salutarsi, arrossirono con palese stupore di D'Ambreuse. Per il resto, il banchiere fu cortesissimo. Niente di più facile che raccomandare il suo giovane amico al guardasigilli. Sarebbero stati sin troppo contenti d'averlo e, come ultima gentilezza, lo invitò a una serata che dava tra pochi giorni. Federico saliva in carrozza per andarci quando gli consegnarono un biglietto della marescialla. Alla luce delle lanterne lesse: «Caro, ho seguito i tuoi consigli. Proprio adesso ho mandato al diavolo il mio pelle rossa. Da domani sera libertà completa. E poi di che non ho coraggio». Nient'altro, ma era un invitarlo al posto vacante. Diede in un'esclamazione, si ficcò il biglietto in tasca e partì. Salì allegramente i gradini. Un domestico annunciò forte il suo nome. D'Ambreuse venne a stringergli la mano e quasi subito apparve anche la signora. Aveva una veste color malva, ornata di pizzi, e nella sua acconciatura i riccioli erano più abbondanti del solito. Non portava gioielli. Si lamentò con Federico che andava così di rado a trovarla e trovò il modo di prolungare un poco la conversazione. Intanto arrivavano gli invitati. Vagando di gruppo in gruppo, Federico arrivò nella saletta da gioco, dove in una cerchia di persone dall'aspetto severo riconobbe Martinon, ben radicato ormai nella borsa della capitale. La sua grossa faccia giallastra riempiva proporzionatamente la barba nera a collare. Meravigliosa a vedersi, tanto ben regolato vi risultava ogni singolo pelo. E, serbando un giusto equilibrio fra l'eleganza dovuta ai suoi giovani anni e la dignità pretesa dalla sua professione, un po' si ficcava il pollice sotto l'ascella alla moda dei bellimbusti, un po' la mano nel panciotto, secondo l'uso degli aderenti al partito moderato. Proferite con freddezza poche parole, si rivolse di nuovo alla sua cerchia. Un proprietario terriero stava dicendo: «Quella gente vorrebbe sovvertire la società. E tutto per arrivare a che cosa? Alla Repubblica! Come se la Repubblica in Francia fosse possibile!» Dichiararono all'unanimità che la Repubblica in Francia non era possibile. Federico si fermò davanti a uno dei giochi, perse i 15 napoleoni che aveva in tasca, fece disinvoltamente dietro front e venne a trovarsi sulla soglia del boudoir, dove si trovava in quel momento la signora D'Ambreuse. La guardò e la trovò affascinante, nonostante la bocca un po' larga e le narici troppo dilatate. La sua grazia era affatto particolare. I suoi capelli avevano un loro modo languido, appassionato di essere ricciuti, e la fronte, color dell'agata, sembrava racchiudere molte cose, denotava carattere. Più tardi, andando a letto, Federico riepilogò la serata. D'Ambrose era stato squisito, la signora quasi incoraggiante. Considerò una per una ogni minima battuta di lei, i suoi sguardi, mille cose impalpabili e non di meno espressive. Sarebbe stato maledettamente simpatico avere per amante una donna come quella. Perché no? Dopotutto, non era peggio d'un altro. E lei magari non era poi così difficile. A svegliarlo fu il pensiero della marescialla. Le parole del suo biglietto «da domani sera» erano certo un appuntamento, e per quel giorno. Aspettò le 9 e corse da lei. Qualcuno saliva le scale davanti a lui e richiuse la porta. Federico s'attaccò al campanello. Delfina, venuta ad aprire, dichiarò che la signora non c'era. Federico insistette, supplicò. Doveva dirle una cosa molto importante, una parola era sufficiente. Risultò convincente alla fine l'argomento di una moneta da 100 e la domestica lo lasciò solo in anticamera. Comparve Rosanette. Era in camicia e aveva i capelli sciolti. E insieme a un gran scuotere di testa gli fece da lontano con le due braccia un ampio gesto che voleva dire «Non posso riceverti!». Federico ridiscese lentamente le scale. Quel capriccio andava più in là di tutti gli altri. Non ci capiva un bel niente. Davanti alla guardiola del portiere fu fermato dalla Vatnaz. «L'ha fatto entrare?» «No, l'hanno messo alla porta. E come fa a saperlo?» «Si vede. Su, su, venga via, sto soffocando». Lo trascinò in strada. Faceva fatica a respirare. Federico sentiva il braccio magro di lei tremare contro il suo. Tutta un tratto esplose. «Quel miserabile! Ma chi? Ma lui, lui, Del Mar!» Federico, umiliato dalla rivelazione, replicò. «Ma è proprio sicura?» «Ma se le dico che l'ho seguito!» esclamò la Vatnaz. «Ce l'ho vista entrare! Capisce tutto adesso, eh? Oh, dovevo aspettarmelo, d'altra parte. Sono stata proprio io, bestia che sono, a portarglielo in casa!» E come il torrente della risciacquatura si trascina i rifiuti, la sua collera fece passare tumultuosamente davanti agli occhi di Federico le ignominie della rivale. «È stata a letto con Jumillac, con Flacour, col giovane Allard, con Bertineau, con Saint-Valéry, quello butterato! Anzi, no, con quell'altro, non ha importanza, sono fratelli. E quando combinava qualche pasticcio, ero io che sistemavo tutto. E cosa me ne veniva in tasca a me? Niente, taccagna com'è! Dopotutto me ne infischio. Sta diventando brutto. Lo detesto. Guardi, se lo incontrassi gli sputerei in faccia!» E sputò. «Proprio così, ecco. Quanto mi importa di lui adesso? E con Arnaud, dica un po', non è una cosa abominevole? Gliene ha perdonate tante, pover'uomo. Non può immaginare quanti sacrifici. Dovrebbe baciargli la terra sotto i piedi. Così generoso, così buono!» Federico godeva a sentir denigrare Del Mar. Per Arnoux, pazienza, a suo tempo l'aveva accettato. Questa perfidia di Rosanette gli pareva gratuita, fuor di posto, e conquistato dall'emozione dell'anziana signorina, gli sembrava addirittura di provare per il mercante una specie di tenerezza. Tutto a un tratto si trovò davanti alla sua porta. La Vatnaz, senza che lui se ne accorgesse, l'aveva portato giù per Faubourg Poissonnière. «Ci siamo», disse. «Io non posso salire, ma lei chi glielo impedisce?» «Per far cosa?» «Ma per dirgli tutto, diamine! Lo prenda, lo porti là, faccia in modo che li sorprenda!» «Ma Del Mar se ne sarà andato!» Lei chinò la testa. «Già, forse ha ragione.» E restava lì, in strada, senza parlare, in mezzo alle vetture. Poi, piantandogli addosso i suoi occhi da gatta selvatica, «Posso contare su di lei, vero? Fra noi due c'è un patto d'onore adesso. Faccia quel che deve. A domani!» Thank you. mentre attraversava il corridoio, Federico sentì due voci che questionavano. Quella di Madame Arnoux stava dicendo: «Smettila, ti prego, smettila di mentire». Entrato Federico, si fece silenzio. Arnoux andava avanti e indietro come un orso in gabbia. La signora, seduta su uno sgabello accanto al fuoco, era estremamente pallida, lo sguardo fisso. La signora ritrovò la voce. «Bisogna usare indulgenza, signor Moreau. Sono cose che succedono ogni tanto nelle famiglie». «Sono cose che si vuol ficcarci dentro per forza», intervenne Arnoux ostentando gaiezza. «Le donne hanno di quelle idee certe volte. Questa qua, per esempio, mica che sia cattiva, al contrario, eppure è un'ora che si diverte a tirarmi scemo con un mucchio di storie». «Sono la verità», disse Madame Arnoux spazientita. «Perché l'hai pur comprato alla fine?» «Io?» «Tu, proprio tu, al persiano». «Il Kashmir», venne subito in mente a Federico. Si sentiva in colpa e pieno di paura. La signora s'affrettò ad aggiungere: «È stato il mese scorso, un sabato, il 14. Ah, proprio il giorno che sono andato a Creil. Vedi bene, niente affatto. Siamo stati a pranzo dai Bertin il 14. «Il 14?» ripeté Arnoux guardando nel vuoto come per cercarvi la data. «E so persino il commesso che te l'ha venduto, uno biondo. Oh, come se potessi ricordarmi il commesso. Eppure è lui che ha scritto sotto tua dettatura l'indirizzo. Rue de Laval 18. Ma come diavolo?» disse Arnoux stupefatto. Lei alzò le spalle. «Oh, è una cosa semplicissima. Sono stata a far aggiustare il mio cashmere e il caporeparto m'ha informato che ne avevano appena spedito uno identico alla signora Arnoux». «Non sarà colpa mia adesso se in quella via ci abita una signora Arnoux. Può darsi, ma non la moglie di Jacques Arnoux». «Insomma, io dichiaro che tu ti stai sbagliando. Vuoi che ti dia la mia parola d'onore?» «Non è il caso». «E perché?» Lo guardò dritto in faccia senza dir parola. Poi, allungando la mano, prese dal caminetto il piccolo forziere d'argento e gli tese, ben spiegato, il foglio di una fattura. Arnoux diventò rosso fino alle orecchie e i suoi lineamenti parvero infiarsi, decomporsi. «Allora?» «Ma...» rispose lentamente. «Che cosa prova questo?» «Oh!» esclamò la signora con un tono di voce singolare nel quale si mischiavano ironia e dolore. Ma sì, adesso mi ricordo. Era una commissione, eh? Anche lei, Federico, dovrebbe esserne al corrente». Federico taceva. «Ah sì, una commissione della quale mi aveva incaricato il vecchio Audry». «E per chi?» «Ma per la sua amica, per la tua!» gridò Madame Arnoux alzandosi in piedi. «Ti giuro, non ricominciare, so tutto». «Ah, bene, molto bene, così sono spiato», ella replicò freddamente. «La cosa dunque ferisce la delicatezza del signore?» «Visto che ci si arrabbia», disse Arnoux cercando il cappello, «e che non c'è modo di ragionare», poi con un gran sospiro: «Non si sposi, ragazzo mio, non si sposi, dia retta a me». E abbandonò il campo. Aveva bisogno d'aria. Nel salotto di casa Arnoux si fece un gran silenzio e tutto nella stanza parve un tratto più immobile. Sopra la lampada un cerchio luminoso imbiancava il plafone, mentre negli angoli l'ombra s'addensava come un alto spessore di veli. Giungeva, col tic-tac della pendola, il crepitare del fuoco. Madame Arnoux era tornata a sedersi, in poltrona, dall'altra parte del camino. Si mordeva le labbra, scossa dai brividi. Poi le sue mani si alzarono. Un singhiozzo le era sfuggito. Stava piangendo. Federico si mise sullo sgabello e, con voce carezzevole, come si fa con i malati, lei può immaginare quanto le sia vicino, quanto capisco la sua... Non rispose, ma continuando a voce alta le sue riflessioni, l'ho sempre lasciato libero. Che bisogno c'era di mentire? Nessuno, certo, disse Federico. Era indubbiamente una conseguenza delle sue abitudini, non ci aveva neanche pensato, e forse in circostanze più gravi, che può esserci secondo lei di più grave? Niente. E Federico sorrise con un cenno d'obbedienza. Non di meno, Arnoux aveva qualche lato buono, voleva bene i suoi bambini. Davvero? E fa di tutto per rovinarli? Beh, questo dipendeva dal suo carattere, un po' facilone, ma in fondo era un buon ragazzo. La signora protestò alzando la voce. Ma cosa significa essere un buon ragazzo? Federico l'andava difendendo così, nel modo più vago possibile, e mentre le testimoniava la sua compassione, si rallegrava. Prendeva diletto nel fondo dell'anima. Per vendicarsi o per bisogno d'affetto, lei avrebbe cercato rifugio presso di lui. La speranza, smisuratamente cresciuta, rinforzava il suo amore. Mai gli era parsa così attraente, così profondamente bella. Di tanto in tanto un sospiro le sollevava il petto. Gli occhi, che guardavano fisso, sembravano dilatarsi a una visione interiore, e la bocca si schiudeva come se dovesse sfuggirne l'anima. Ogni tanto vi premeva il fazzoletto. Federico desiderò quel lembo di batista tutto intriso delle sue lacrime. Quasi senza volerlo, guardava verso il letto, in fondo all'alcova, figurandosi la testa di lei posata sul cuscino. E la visione era così chiara che dovette trattenersi per non prenderla fra le braccia. La signora aveva abbassato le palpebre, pacificata, inerte. Allora le si fece più vicino e, chinandosi su di lei, contemplava avidamente le sue fattezze. Un rumore di stivali venne dal corridoio. Era lui. Lo sentirono che chiudeva la porta di camera sua. Federico chiese a Madame Arnoux con un cenno se doveva andarsene. Rispose sì, nello stesso modo. E quello scambio muto di pensieri era come un consenso, un avvio d'adulterio. Arnoux, in procinto ad andare a letto, si stava togliendo la redingote. «E allora, come sta?» «Meglio», disse Federico. «Le passerà». Ma Arnoux era in pena. «Lei non la conosce. Ha certi nervi adesso. Bell'idiota quel commesso. Ma guardi un po' cosa vuol dire essere troppo buoni. Se non avessi regalato quel maledetto scialle a Rosanette, non è il caso di rimpiangerlo. Gliene è così riconoscente». «Lei crede?» Federico ne era sicuro. Prova ne fosse che aveva appena congedato il vecchio Audry. Povera amica. E soverchiato dalla commozione, Arnoux voleva correre da lei. Si infilò bruscamente la redingote, aveva già afferrato il candeliere. Federico malediceva la propria stupidaggine e gli fece presente che quella sera, per decenza, doveva restare accanto alla moglie. Non poteva lasciarla sola. Sarebbe stato un grosso errore. Là non c'era niente d'urgente, ci può andare benissimo domani. Andiamo, lo faccia per me. Arnoux mise giù il candeliere, volle abbracciare Federico e gli disse: «Lei sì, che è buono». Era cominciata allora per Federico un'esistenza compassionevole. Diventò il parassita di casa Arnoux. Se qualcuno stava poco bene, veniva 3 volte al giorno a chiedere notizie. Andava a chiamare l'accordatore per il pianoforte, sapeva prevenire 1000 desideri e sopportava con letizia i musi della signorina Marta e le carezze del piccolo Eugenio, che gli metteva sempre in faccia le sue mani sporche. Partecipava a certi pasti durante i quali signore e signora, uno di fronte all'altra, non si scambiavan parola, o invece Arnoux, con qualche assurda osservazione, riusciva a irritare sua moglie. Arnoux si lamentava dell'umore della moglie, delle ostinazioni, dei pregiudizi di lei. Ah, non era più la donna d'una volta. Se fossi al suo posto, diceva Federico, le assicurerei una rendita e andrei a vivere da solo. Arnoux non rispondeva e dopo un momento si metteva a farne l'elogio. Era buona, devota, virtuosa, intelligente e, passando alle qualità corporee, non lesinava le rivelazioni con la dabbenaggine di quei personaggi che si vantano dei propri tesori nelle locande. Una catastrofe venne a turbare il suo equilibrio. Era entrato come membro del collegio sindacale in un'impresa di Caolino, ma fidandosi di tutto quel che gli dicevano, aveva sottoscritto alcuni rapporti inesatti e approvato, senza verificarli, i bilanci annuali messi su con arte fraudolenta dall'amministratore. Ora la società era fallita e Arnoux era stato condannato con gli altri, come civilmente responsabile, al pagamento dei danni e degli interessi legali, ciò che gli procurava una perdita di circa 30.000 franchi più le spese di causa. Federico, saputa la cosa dal giornale, s'era precipitato in Rue de Paradis. Fu ricevuto nella camera dalla signora. Era l'ora di colazione. «Dunque», disse Arnoux mandando un gran sospiro, «anche lei ha sentito?» E al gesto di compassione abbozzato da Federico, «ecco qua, sono vittima della mia buona fede!» Dopodiché tacque, ed era depresso al punto che rifiutò la colazione. Madame Arnoux alzò gli occhi stringendosi nelle spalle. Lui si passò le mani sulla fronte. «Dopotutto non ne ho nessuna colpa. Non ho rimproveri da farmi. È stata una disgrazia!» «Ne verremo fuori. Tanto peggio, in fede mia!» E attaccò una brioche, obbedendo del resto alle sollecitazioni della moglie. La sera volle andare a pranzo lui e lei soli in un salotto riservato della Maison d'Or. Poi, dato che s'annoiava, andò a distrarsi dalla marescialla. Prima d'allora tutti avevano chiuso un occhio con lui, grazie al suo eccellente carattere. Quel processo lo fece classificare tra la gente tarata. Intorno a casa sua si fece il vuoto. Thank you.